Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici e naturalmente buona Pasqua. Oggi per tutti noi giornata dedicata alle tradizioni, anche culinarie e gastronomiche. Allora vi segnalo di Simonetta Agnello Hornby e Maria Rosario Lazzati La cucina del buon gusto, è pubblicata da Feltrinelli, 286 pagine, 16 euro. Simonetta Agnello Hornby è una scrittrice ormai nota, di professione fa l'avvocato, ma ha avuto grande successo con alcuni titoli, l'ultimo dei quali dedicato appunto alla cucina. Adesso scrive a quattro mani con Maria Rosario Lazzati, che è un'insegnante di cucina, e ne viene fuori un libro insolito, colto e gradevole, sul gusto della cucina. E infatti il libro è dedicato al principe dei gastronomi, Jean-Anthelme Brillat-Savarin, al quale la Hornby scrive una lettera per spiegare la passione, anzi il colpo di fulmine dovuto alla scoperta che il francese metteva l'uomo e la sua legittima ricerca del piacere al centro dell'universo, e il piacere, inteso nel mio cristianesimo come una trasgressione, particolarmente quello dei sensi e quello della gola, peccato capitale, è la ricompensa per sopravvivere. Mi insegnavate, scrive la Hornby a Brillat-Savarin, il significato e il godimento del cibo, della tavola e del convivio senza sensi di colpa. Vale ancora la pena di cucinare? Secondo le due autrici sì. Perché cucinare ci aiuta a mantenere la libertà, scrivono, e il potere di creare quello che vogliamo e che ci piace, con gli ingredienti scelti da noi, per deciderne l'uso, controllarne la cottura e gli abbinamenti, per pianificare le portate del pranzo e il loro ordine, per scegliere i vini che lo accompagneranno. E allora il libro risulta essere un contrappunto di narrazione della Hornby e di ricette della Lazzati, raggruppate queste ultime in vari capitoli sulle varie occasioni che inducono a differenti menu. E per esempio troviamo il menù sostanzioso, il menù vegetariano, il menù speziato, il menù per buffet, quello d'inverno, d'autunno, il menù dei 100 anni di zia Maria. Vi segnalo poi un libro di Licia Granello, che è una giornalista, nutrizionista ed esperta di alta gastronomia, che ha pubblicato Il gusto delle donne, il mestiere della tavola in 20 storie al femminile, pubblicato da Rizzoli, 212 pagine, 16 euro. Questo libro racconta la storia di appunto 20 imprenditrici nei settori alimentare, vinicolo e dell'ospitalità. Queste imprenditrici, scrive l'autrice, sono donne che si occupano di figli, mariti, genitori anziani, organizzando la socialità familiare. E intanto vendemmiano, impastano, degustano, selezionano carni, controllano filiera, accolgono clienti nei loro locali. Madri e nonne, singole sposate, ragazze di oggi e di ieri, legate da un filo, un nastro di zucchero filato che corre dal Piemonte al la Sicilia. Ma le donne naturalmente hanno tante altre qualità, tra cui quelle della pittura, come ci dimostra il libro di una grande scrittrice italiana, Anna Banti, Quando anche le donne si misero a dipingere, pubblicato da Abscondita, 100 pagine, 13 euro. Questo libro è una serie di 12 ritratti di grandi artiste che si apre con la celeberrima sofonisba Anguissola e poi affronta tanti altri nomi, per esempio Lavinia Fontana, il sottotitolo del capitolo dedicato alla quale dà appunto il titolo al libro. E qui sentiamo la spiegazione di come potesse nascere il gusto per una donna di allora di dipingere. Fu sulla metà del secolo XVI che qualcosa cambiò. Certi padri cominciarono a vezzeggiare le loro bambinette, che, furbette, non tardarono a profittarne. Questi padri, che dico io, erano uomini modesti, di cuore tenero e di poco cervello. Esercitavano, come era naturale, un loro mestiere, necessario a mantenere la famiglia sempre numerosa. Se fra questi galantuomini qualcuno faceva il pittore, può darsi che s'accorgesse come la bambina, mettiamo Lavinia, lo guardava lavorare e rubasse certi ritagli di carta bombacina per farsi su dei fantocci e delle casette. La mamma strilla e sculaccia, il babbo pensa, beh, e se ci avesse l'estro davvero, questa moccolona? La piglia in braccio e le mette in mano una matita. Vedi? Gli occhi, il naso, la bocca, si fanno così. Prova te adesso. Lavinia ci ha già provato e da sotto il grembiulino tira fuori una faccia con occhi, naso e perfino orecchie, tutto a posto. E poi troviamo tante altre donne fino all'8-900. Sofonisba, in particolare, troviamo in una posizione di assoluto rilievo nel libro di Flavio Caroli, Storia della fisionomica, arte e psicologia da Leonardo Freud, pubblicato da Elepta, 286 pagine, 19,90 euro. Fisiognomica vuol dire ritrattistica volta a cogliere i tratti profondi del soggetto ritratto. Una tecnica, un settore dell'arte che va d'accordo e va a fianco con la psicologia, secondo l'autore, che qui dimostra la sua tesi con una carrellata nella storia dell'arte dal Rinascimento a oggi, da Leonardo a Baselitz. Un nesso importante è quello tra fisiognomica e psicologia perché, spiega Caroli, la prima si identifica appunto con la storia della psicologia, cioè con l'asse portante della speculazione sull'uomo elaborata in Occidente, e perché la fisiognomica nella sua storia utilizza la pittura, essendo utilizzata, al fine di tracciare la linea maestra del pensiero visivo occidentale. E una parte importante del libro, appunto, è dedicato a Sofonisba Anguissola, un disegno della quale il fanciullo morso da un gambero, secondo Caroli, è quello che per la prima volta nella storia della pittura rappresenta l'istante, e solo quell'istante, in cui un lancinante moto di dolore fisico si trasmette alle fattezze del volto. Il fatto, in altre parole, conclude Caroli, che si intuisca la matrice figurativa che porterà all'espressionismo. Un altro mestiere nel quale troviamo molte donne di grande bravura è quello della bibliotecaria, protagonista di un lungo racconto, La custode di libri, di Sophie d'Ivry, è pubblicato da Einaudi, 66 pagine, 10 euro, tradotto da Giusi Barbiani. Questo è un libro sereno, direi, sull'amore per i libri, non pretenzioso come altri titoli recenti, sempre francesi. È un divertissement, come lo definisce l'autrice, che è una trentenne alla sua prima prova narrativa. Protagonista del libro, una biblioteca appassionata del proprio lavoro, ancorché segregata in un settore poco battuto, in un seminterrato buio, buio perché, scrive, gli architetti non pensano mai a noi, quelli di sotto, gli architetti non pensano mai a niente del resto, scrive l'autrice naturalmente. Il lungo monologo associa considerazioni sui libri con timidi tentativi di approccio a un ragazzo indifferente a queste avance e che bada invece soltanto ai libri, ma soprattutto il libro. Questo libro è un grande atto di amore per la biblioteca, sempre in toni ironici e lievi, e rappresenta anche la preoccupazione per la rotta che sta imboccando la cultura, evidentemente anche in Francia, come dimostrano queste righe. Ecco dove ci porta la democrazia culturale. Non è più una biblioteca dove regna il silenzio ovattato degli scaffali intelligenti. È un'area di ricreazione dove la gente viene a distrarsi. Alla cultura fanno la ruota e di sopra il direttore è contento. Ma che cosa crede? Li conosco i suoi argomenti, caro ministro. Fare della mediateca un luogo di piacere e di convivialità nel cuore del centro urbano. Far sì che l'ingresso in biblioteca non intimidisca. Unire piacere e cultura perché la cultura diventi un piacere e bla bla bla. Ma tutto questo non è vero, è una menzogna, una manipolazione. La cultura non è un piacere. La cultura è uno sforzo permanente dell'essere per sfuggire alla propria vile condizione di primate non civilizzato. Guardi, prendono in prestito solo DVD, solo DVD. Vogliono forse imparare una piccola parte della verità sul mondo e basta? No. Vengono per divertirsi, distrarsi, e quegli zombie non si tolgono nemmeno le cuffie. Mi allungano la tessera al banco del prestito come se allungassero il bancomat alla cassiera al supermercato. Se per disgrazia gli consigli una lettura, ti guardano con la condiscendenza di chi si crede un essere superiore. Ed è per quelli lì che dobbiamo sforzarci. Prendono in prestito solo DVD. Noti che non ho niente contro il cinema. Mi piace molto andare al cinema con un ragazzo. Non è una cosa che mi succeda più tanto spesso ormai, ma l'apprezzo. Soprattutto se il ragazzo è pulito e porta i basettoni. Arthur li aveva, ed è la cosa che mi ha fatto capitombolare. Ma questo non ha niente a che vedere con la cultura. La sera si guardano i loro DVD e io sono tutta sola davanti al televisore. Roba da piangere. In realtà, caro ministro, lei li fa divertire perché ha paura di loro. Rumore, sempre rumore, mai il silenzio dei libri, mai. Bisogna reagire, bisogna fare qualcosa. Il ministro vi inganna, piccoli miei. Lo sa bene lui che la rivoluzione non si fomenta nel rumore, ma nel silenzio mormorante delle letture personali. Ma è già troppo tardi. E adesso vi segnalo due prove narrative. Una è di Antonia Slan, il libro di Mouche, pubblicato da Schirà, 132 pagine, 15 euro. Siamo nel 1915, ai tempi della persecuzione dei turchi contro gli armeni e del genocidio di quest'ultimo popolo. Due donne con un bambino si mettono in salvo da un'incursione che ha distrutto un villaggio, un antico convento. Loro si uniscono un paio di altre persone e insieme ritrovano un libro sacro per la civiltà armena che decideranno di portare in salvo nonostante si tratti di un volume ingombrante e pesante. Un volume che esiste ancora, ricomposto a Yerevan, tranne qualche foglio che è custodito a Venezia e a Vienna. E la storia di questa avventura è una storia tragica, ravvivata dall'impegno a salvare e tramandare un simbolo della civiltà degli armeni e dunque la storia e la dignità di un intero popolo. E poi un giallo di una scrittrice molto affezionata a questo genere, Mariella Alberini, esperta di problemi internazionali e docente universitaria, che ha pubblicato Transiberiana in nero. Pietro Macchione editore, 240 pagine, 15 euro. Questa è un'approfondita testimonianza della realtà russa, questa volta attraverso un viaggio appunto sulla mitica linea della Transiberiana, che non mancherà di tenerci col fiato sospeso e di farci penetrare nelle più segrete strutture del potere russo e alle trame che hanno caratterizzato, secondo la scrittrice, la recente rielezione di Putin. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Tra qualche giorno, esattamente il 14 aprile, ricorderemo il centenario di un evento che ha sconvolto il Novecento, il naufragio del Titanic, del Titanic, uno certamente degli eventi più drammatici del secolo scorso, che viene rievocato nel libro di Donatello Bellomo, Titanic, l'altra storia, pubblicato da Mursi, a 286 pagine, 16 euro. L'autore è un giornalista esperto di cose marinare che coglie soprattutto il valore simbolico di questo evento e scrive infatti: il Titanic non è solo una nave scomparsa e ritrovata, è la nave che ha sfondato i confini dell'immaginario saturandone lo spazio. Addirittura scrive: il Titanic è il manifesto del Novecento, non un mondo a parte ma un microcosmo in cui i fotogrammi del secolo fuggito da quella notte non scandiscono altro tempo che il nostro. Ma facciamoci spiegare dall'autore perché. Buongiorno a Donatello Bellomo. Buongiorno. Donatello Bellomo, partiamo dal significato di questo evento. Lei definisce l'affondamento del Titanic come un simbolo, anzi il simbolo del Novecento. Come mai? Il Novecento forse si era affacciato presentandosi come il secolo della velocità, della comunicazione, dell'affrancamento dell'uomo dal lavoro brutale, secolo della speranza, se noi pensiamo a quanti immigrati hanno varcato l'oceano cercando prospettive di vita migliore, quella che teoricamente era la nave più avanzata tecnologicamente sul piano della sicurezza del mondo è affondata in 160 minuti. Il fattore umano ha condizionato il tutto, in questo senso il Titanic è stato un po' il simbolo della grande illusione, perché era stato appunto sbandierato da tutta la stampa mondiale come l'oggetto soggetto della perfezione tecnica più avanzata, ha dimostrato invece che il progetto come tale era fallace e che in ogni caso nulla può l'uomo di fronte alla natura, soprattutto quando il suo comportamento è a dir poco non professionale. E a un certo punto lei definisce la nave come il monumento alla menzogna. Certo, c'è da dire questo, che la nave era della White Star Line, che era di proprietà di Jean-Pierrepont Morgan, che era l'uomo più ricco del mondo, definito dalla rivista Forbes ancora ultimamente il secondo manager più bravo di tutti i tempi. La campagna di stampa che aveva preceduto il lancio del Titanic era stata martellante, molto più che non sull'Olympic, che era la gemella che era scesa in acqua qualche mese prima. E appunto il mondo che può scegliere, vale a dire il G7 internazionale, aveva addirittura cambiato la data della partenza per salpare su quella nave comandata da quel Edward John Smith che veniva ritenuto il miglior comodoro del mondo. E così non è stato. Però appunto sino alla mezzanotte del 14 aprile 1912 tutta la stampa mondiale ne parlava come di una struttura meravigliosa, futuribile e quant'altro. Quando ci si è resi conto che era affondata, esattamente come tutte le navi, si sono immediatamente chiesti il perché e il per come, e le successive due inchieste, un'americana e un'inglese, non hanno accertato nulla, perché sono state sostanzialmente due inchieste farsa, visto che erano coinvolte grandi potenze economiche, soprattutto il Board of Trade, cioè il Ministero della Navigazione inglese, che consentiva a navi di quella dimensione di navigare con 16 scialuppe a bordo e dunque di lasciare 1.500-2.000 passeggeri in balia di se stessi. I passeggeri sono morti per ipotermia, tra l'altro, non per la conseguenza dell'urto. E quindi ai 100 anni dopo c'è ancora da scoprire su questo disastro? Sì, c'è da scoprire innanzitutto quando Ballard, che io avevo intervistato illo tempore, trovò il relitto, lo trovò in un punto nave ben distante da quello che era ritenuto essere il punto dell'affondamento, perché l'SOS era stato diramato con un punto nave sbagliato. Questo nella concitazione del momento è anche giustificabile. C'è da dire che la nave, appunto, non essendo stata dotata strutturalmente di un doppio fondo sui lati, ma solo di queste paratie, era suscettibile di essere vittima proprio di uno speronamento di questo tipo. Le preciso solo che la smagliatura provocata dalla lama di ghiaccio dell'iceberg si estendeva per 90 metri, ma complessivamente il diametro della fessura non era più grande di quello di una porta di casa, però coinvolgeva il quinto compartimento stagno e la nave era stata progettata per reggere sino al quarto compartimento stagno, colmo d'acqua. Con il quinto sarebbe affondata, cosa che è successa. E poi ci sono elementi sorprendenti, altri elementi sorprendenti che emergono dalla lettura del suo libro, per esempio che non usavano il binocolo gli ufficiali. Guardi, questa è una delle cose più incredibili. Allora, succede questo. Il comandante John Smith aveva avuto due incidenti sulla Gemella, determinati non da imperizia, quanto dal fatto che le strutture portuali non erano adeguate a navi di quella potenza e di quelle dimensioni. All'arrivo del viaggio inaugurale con l'Olympic, le eliche sradicano letteralmente un rimorchiatore al porto di New York e il rimorchiatore sbatte contro l'Olympic. Questo incidente si ripete tale quale tre mesi dopo sul Solent. Allora, l'Olympic viene messo in riparazione, gliela faccio breve. In preparazione del viaggio inaugurale, ma pochissimi giorni prima della partenza, pochissime ore, il comandante Smith chiede che venga sbarcato l'ufficiale Blair, che non aveva mai navigato sul Titanic, neanche durante le prove, e che venga reintegrato dal secondo ufficiale Lowe, che invece aveva navigato sull'Olympic. Il problema è che Blair, ovviamente, non dico offeso, ma addolorato, perché partecipare a un viaggio inaugurale è sempre una medaglia puntata al petto, scende affrettatamente e porta con sé una chiave che ha una targhetta, The Crow Nest, che sarebbe il nido del corvo, la coffa. In quella coffa c'era un armadietto di metallo che conteneva i binocoli, ma la cosa incredibile, e che io ho accertato leggendomi i verbali delle inchieste, è che la mancanza dei binocoli è stata comunicata immediatamente, ancora prima della partenza da Southampton per arrivare a Cherbourg e poi per arrivare a Queenstown, allo Stato Maggiore, il quale non ha fatto nulla. E teniamo presente che molti passeggeri di prima classe avevano dei potenti binocoli con i quali si divertivano a guardare l'orizzonte. Non è stato neanche chiesto in prestito un binocolo, ecco. Senta, una domanda obbligata. C'è qualche parallelo con recenti vicende marinare? Allora, il comandante Smith, nonostante avesse ricevuto e letto numerose segnalazioni di ghiaccio durante quella fatidica domenica 14 aprile, la sera rimase a cena con alcuni milionari dell'epoca e se ne andò a dormire alle 9, raccomandando di essere avvisato in caso di diminuzione di visibilità e quant'altro, però andò a dormire. In quel giorno lui, che più che fare il comandante, ha fatto l'intrattenitore, ha fatto il padrone di casa, conversando con questo o con quello. Mi sembra che l'episodio che lei cita, anche senza fare nomi, ricalchi in linea di massima un ruolo dismesso, non quello di comandante di una nave che ha la responsabilità in primis degli uomini che ci sono a bordo, in secondo piano della nave, perché se questa manovra fatta nel Tirreno è stata fatta esattamente così, mi fa pensare che sia stato disattivato addirittura il sistema automatico di navigazione, che è identico a quello degli aerei. Noi sappiamo che un aereo può atterrare in piena nebbia e decollare perché c'è un sistema automatico. Esattamente una nave di quelle dimensioni ha un sistema di pilotaggio che non permette di andare su bassi fondali, perché la nave si rifiuta di andarci. Evidentemente è stato disattivato, non so se per fare un inchino o per fare dell'altro. Diciamo che la sicumera è sempre presente. Pensavano che la nave passasse laddove non poteva passare, non c'è passata, e nell'altro caso pensavano che i sistemi di sicurezza sarebbero stati sufficienti. In ogni caso, i due comandanti, uno lo conosciamo, l'altro non lo cito, in quella giornata, invece di fare appunto i capitani, hanno fatto gli intrattenitori o i padroni di casa o, diciamo così, i direttori di un parco giochi. Bene, grazie a Donatello Bellomo, buona Pasqua. Altrettanto a lei e a tutti voi, sono un vostro ascoltatore e mi riascolterò per una volta. Grazie, buona Pasqua, auguri. Connesso al precedente, non posso non segnalare il libro Il naufragio di Aldo Rosselli, pubblicato da Mauro Pagliai, 160 pagine, 10 euro. Qui si parla di un altro incidente famosissimo, quello che fece affondare l'Andrea Doria il 25 luglio del 1956, quando per la nebbia la nave italiana entrò in collisione con lo Stockholm. Sull'Andrea Doria c'era anche l'autore, che pubblicò 30 anni dopo, nel 1987, questo resoconto che viene appunto adesso riproposto. In realtà resoconto è una parola riduttiva. Non si tratta di una cronaca dell'incidente, ma di una lunga riflessione su se stessa condotta a New York, dove il naufrago è stato condotto in salvo, provocata proprio da quell'evento tragico. Esso dà a Rosselli l'opportunità di scavare a fondo sulla propria vita, sul rapporto con Stella, e una sorta di contraltare al protagonista è il giornalista Max, che lo perseguita per un'intervista che lo stesso Rosselli immagina spesso nella sua mente per anticipare i tranelli che teme ci saranno da parte dell'intervistatore. E anche lì, come è stato adesso ricordato da Donatello Bellomo, la figura di un capitano che ha qualche momento di sbando e di debolezza. Anche il famoso comandante Calamai appare qui, infatti, nella sua autentica dimensione, quella che di Calamai scrive infatti Rosselli. Nonostante gli altoparlanti, la sua voce taceva. Certo, qualcosa avrebbe potuto dire ai passeggeri che vagolavano in preda al panico, ma da Calamai queste poche parole non arrivarono, forse per l'eccessiva onestà. E con questo ringrazio Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro ancora buona Pasqua e vi do appuntamento alla settimana prossima.